Il bel Magheta. Alla signorina Irma Salmini. Ruston, Lili, Rita, Gabi, Pitur de ca. Mesprusna a mi de paciugà con ti penei. Quanti cinghei mi de fieu cutra in pastei. Mo, giusta in che, bisci de dag denter. Zic, zac, sota! E all'irmeta de piturag un bel magheta della giornata. Quante se andata fera per te cartabulada? L'et visti in che? Lui, proprio lui. Vera? Di su, dim come l'era. Stringa, fa su. Come l'era? Struca, accubas. Squasi el purtassa spaguleta la morta spas. In cupuleta de cardanel, faccia d'usel, crapa de passer, l'el Gabriel che va, che passa, filel. Che cua la vita sua, stramba, notambula, che lunga cua, sempre in sciambula, sempre in macchina, lui, lei in macchina per pude cur, andà, andà, la macchina, ma in tanta lur, istri, istri, te disi, istri, la vita fera, qui scini vi. Che gessisce in fera dai di pe. Tende cadre. Duel, com'è? Oh, che meste. Te chi? Taxi. Umbrel. Bouton. Resum. Ma te. Se l'era lì adesso. L'insci. Duel peves anda finì. Camion. Reclam, motociclette tram, te là, odes, klaxon, transu, pepet, cagen ades, e un fium de gent, un fium, e lui? Due! In fum lenda. Oh bel! Ma va! El ghe pu. Delio Tessa, Milano, 1939. El bel Magheta. In pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International.